cos'è quest'estate? Di Elisabetta Fiorito. Sirte, porto marittimo dello Stato Islamico. La minaccia scritta con lo spray su un muro della città libica parla chiaro. I bersagli sono l'Occidente e Roma, culla della cristianità. E poi ci sarebbero anche le prove, i documenti trovati dai servizi segreti libici nel covo dell'Isis a Sirte. Veri e propri dossier con nomi e piani d'attacco che riguardano il nostro paese. Tra gli affiliati jihadisti anche alcuni militanti attivi nel milanese. Buongiorno, buongiorno. Un Ferragosto blindato, quello che ci apprestiamo a vivere in Italia oggi. Un Ferragosto sotto l'allarme terrorismo, come abbiamo sentito dal servizio. Un Ferragosto che forse potrebbe portare l'Italia anche ad una fase 2 in Libia, come dice oggi il ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Abbiamo in linea con noi il collega del Sole 24 Ore, Marco Ludovico, che si occupa proprio di interni, di terrorismo. Ci sarà la famosa conferenza stampa del ministro degli interni Angelino Alfano anche oggi, Marco, ma esiste questo allarme e come sta vivendo l'Italia questo momento? Buongiorno Elisabetta, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 24 e buon Ferragosto. Anche oggi Elisabetta, molti esponenti della pubblica sicurezza a Roma, a Milano, ma anche in molte altre zone d'Italia particolarmente affollate. Pensate soltanto alla costa adriatica, dove in questo momento ci sono 9 milioni di presenze, vi possono dire anche ieri è andato tutto bene. Il livello di allerta in Italia, l'allerta terrorismo è livello 2, quello massimo, e il riferimento è dal 7 gennaio 2015, quando l'attacco a Charlie Hebdo in Francia ha cambiato lo scenario della minaccia terroristica in Europa. Questa mattina il ministro dell'Interno riunisce, come ad ogni Ferragosto, tutti i vertici delle forze dell'ordine e dei servizi segreti per fare il punto sulla minaccia antiterrorismo. Il livello di rischio resta sempre quello massimo possibile, ma io vorrei subito dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio 24 che non ci sono particolari novità nel pericolo che oggi l'Italia corre, che è un pericolo concreto, che è un pericolo che deriva dal contesto in cui si trova l'Italia, ma che non è significativamente cambiato rispetto ai mesi scorsi. C'è tutto un sistema mobilitato e il ministro dell'Interno oggi ne renderà conto di quali sono i risultati, quali sono le verifiche, quali sono le misure che sono state prese. Tuttavia la minaccia che l'Italia deve combattere oggi non è diversa da quella dei mesi scorsi, resta comunque una minaccia molto alta. Possiamo dire, Elisabetta, sì, anticipando in parte anche i dati che il ministro dell'Interno renderà più tardi, che dal 1 gennaio del 2015 in Italia sono state controllate 160.000 persone e con quella eseguita due giorni fa dell'imam in Puglia sono state eseguite 109 espulsioni di soggetti considerati radicalizzati. Mi farebbe piacere nel corso della trasmissione raccontare, per quella che è stata anche la mia esperienza in questi anni, come funziona il sistema antiterrorismo oggi in Italia, perché è un sistema complesso, un sistema articolato, un sistema che finora è riuscito a dare i suoi frutti. Allora Marco, quindi ti interrompo perché assolutamente ce lo dovrei dire, ma in questo momento diamo la linea per Strade in diretta. Ma cos'è quest'estate? E noi continuiamo a parlare dell'allarme terrorismo con Marco Ludovico del Sole 24 Ore. Marco, tu ci hai detto, poi vi illustrerò come funziona il sistema di antiterrorismo in Italia, però che cosa pensi di questi barconi che potrebbero venire da Sirte e quindi da quello che era l'ex roccaforte dell'ISIS in Libia? C'è un pericolo vero? Stiamo controllando le coste abbastanza secondo te? Ecco, questo è una vecchia polemica che è ritornata di nuovo ora, perché naturalmente l'attacco contro Sirte porta sicuramente, se i gruppi di militanti dell'ISIS saranno sconfitti, a una diaspora, a una fuga. È possibile che ci siano sicuramente delle strade di fuga da parte dei miliziani dell'ISIS che possano ipotizzare anche una via d'uscita attraverso le barche, ma attenzione, intanto si tratta di fare degli attraversamenti in una zona di mare molto pericolosa. Vorrei ricordare che secondo l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, soltanto quest'anno, nel 2016, sono morti in mare nel canale di Sicilia circa 3.176 vittime. Quindi i soldati dell'ISIS sanno che se affrontano il canale di Sicilia in questo momento possono rischiare la vita. Questo è stato un percorso sempre escluso, ragionevolmente escluso dai nostri servizi di intelligence, dai nostri osservatori. Infatti è anche pensabile che le vie di fuga siano verso il sud dell'Africa. Naturalmente i servizi di controllo che sono stati fatti finora saranno ulteriormente rafforzati. Ricordiamoci sempre che davanti alle coste della Libia c'è tutto un dispositivo navale europeo, comprese le unità della Marina Militare Italiana e della missione EUNAVFOR Med. E inoltre che oramai quasi tutti i migranti che sbarcano in Italia finiscono nei cosiddetti hotspot, sono dei sistemi di controllo organizzati con la polizia delle frontiere e vengono tutti quanti sottoposti a controllo e identificazioni. Naturalmente questo nuovo fatto rafforzerà ulteriormente l'attenzione, soprattutto se ci fosse il pericolo che qualche migrante sbarcato scappasse sulle coste italiane piuttosto che finire nei sistemi di controllo. Ormai questo rischio è stato ridotto a zero, ma io sul tema dell'identificazione fra immigrazione e terrorismo resterei comunque prudente. Calmo, calmo. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, e diamo il benvenuto a Stefano D'Ambroso, questore della Camera di Scelta Civica ed ex magistrato, che è abbastanza esperto di terrorismo. C'è questo pericolo nuovo, questo nuovo fronte, che il terrorismo possa venire dal mare, onorevole D'Ambroso? Guardi, questa è una riflessione su cui chiaramente da tempo ci sta svolgendo una serie di analisi e di appunto indagini. Non è l'obiettivo principale quello delle attività investigative che oggi si rivolgono chiaramente dopo i fatti di Sirte, che sono stati ricordati da chi mi ha preceduto, e quindi dopo che c'è una riscontrata possibilità di diaspora e di fuga da parte di soggetti che hanno combattuto e quindi hanno esperienza di guerra e quindi non hanno più lo spazio e la possibilità di rimanere in quella zona. Quindi che qualcuno possa decidere di raggiungere l'Europa è un dato di fatto incontrovertibile, e proprio su questo l'attività prima di intelligence e poi subito a seguire quelle di polizia stanno investigando. Ma il vero problema del fenomeno epocale migratorio non è quello del terrorismo, e su questo è auspicabile che insomma ci sia una comunicazione come quella che voi state facendo anche oggi, che tenga ben separate le due fattispecie, i due fenomeni. Il terrorismo non ha nulla a che fare in modo strutturale con le migrazioni che stiamo vivendo e stiamo cercando di gestire negli ultimi due anni e mezzo. Quello che preoccupa è in prospettiva. È evidente che sarà facile per gruppi presenti senz'altro in Europa, vicini ad aree terroristiche, andare a pescare in un mondo più numeroso di migranti che nella disperazione piuttosto che nella incapacità di ritrovare una propria collocazione in Europa possono essere facilmente attratti dal messaggio terroristico, dal messaggio jihadista, e quindi quello di farsi saltare in aria perché non hanno nulla da perdere. Ed è proprio su questo, non perché siamo buoni, ma perché ci conviene davvero, ed è proprio su questo che bisogna investire, quindi su programmi di integrazione che nel medio-lungo periodo possono funzionare. Domani non avremo risultati, evidentemente, ma fra 5-10 anni, che sono nella storia sono un tempo assolutamente accettabile per fare programmi utili per tutti i cittadini e per la società a cui deve rivolgersi un ceto politico. Ebbene, nei prossimi 5-10 anni, se si investe sull'integrazione, l'integrazione la più intelligente possibile, la più rispettosa dei reciproci principi culturali, ecco, noi avremo meno possibilità di avere soggetti che si fanno saltare in aria perché facili prede di questi gruppi terroristici presenti comunque chiaro, in Europa. Chiaro. Senta, onorevole D'Ambrosio, perché sì, so che lei poi ci deve lasciare in fretta. Sì. Che cosa pensa invece di questa possibilità che dice il ministro Gentiloni di una fase 2 in Libia, dove con il sì delle Camere si possono addestrare agenti e militari a Tripoli, di Tripoli? Guarda, anche questa è una scelta politica che l'Italia ha, proprio perché siamo fra le prime 10 grandi potenze al mondo, non dimentichiamocelo, e apparteniamo a aree di grandi players, di grandi paesi che gestiscono gli equilibri della politica internazionale, sia nel G7, sia nel G8, sia nel G9, tutti questi grandi consessi internazionali a cui l'Italia partecipa con un ruolo attivo e con un ruolo riconosciuto, ebbene ci devono necessariamente sollecitare a essere presenti in Libia per una varietà di ragioni, non perché ci piace fare la guerra evidentemente, ma perché per il contesto storico che la Libia sta vivendo e che sta prospettando purtroppo alla sicurezza dell'Europa prima ancora che dell'Italia. Ebbene, noi dobbiamo, insieme agli altri paesi presenti in questi organismi internazionali che gestiscono la sicurezza nel mondo, dobbiamo essere presenti perché siamo storicamente i più interessati a essere vicini, essendo troppo vicini, essendo frontalieri per la nostra storia anche di vicinanza politica alla Libia. Non mi riferisco a Gheddafi, ma mi riferisco alla nostra presenza pre-gheddafiana nella terra libica. Abbiamo interessi energetici importanti che sono chiaramente da controllare. Lei crede nel riscatto pagato per i due medici della Bonatti? Si parla di 13 milioni di euro? Ma io non ho elementi per poterlo insomma confermare qui, però in termini di analisi e in termini di valutazione non escluderei che possa essere stato possibile, il che se anche fossero stati soltanto qualche milione in meno o anche insomma cifre diverse rispetto a quelle che vengono diffuse legittimamente da chi fa un mestiere come il vostro, quello della stampa e quella della cronaca, ecco, io credo che comunque faccia parte anche questa di un rapporto di gestione politica di fenomeni emergenziali come questo, per cui se dovesse essere accaduto non credo che dobbiamo meravigliarci e gridare allo scandalo. Ok, perfetto, grazie allora a Stefano D'Ambrosio, che è questore della Camera di Scelta Civica, che ci doveva lasciare in fretta, e diamo il benvenuto a Nicola Morra, senatore della Repubblica con il Movimento 5 Stelle. La prima domanda è: siete favorevoli ad una fase 2 in Libia, come annuncia oggi il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, per addestrare agenti e militari di Tripoli? E l'altra, credete a questo riscatto pagato di 13 milioni di euro e qual è la vostra posizione? Beh, intanto mi lasci salutare tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. Per dirla subito, noi siamo del tutto contrari ad un intervento che non si prefigura come immediatamente armato, ma che comunque costituisce le basi affinché si legittimi per esempio un trasferimento di competenze, ma anche di strumenti al fine di produrre guerra. Noi siamo assolutamente convinti che la guerra non si combatta con la guerra, ma con interventi intelligenti di cooperazione e di integrazione. Io prima mi sono permesso di ascoltare D'Ambrosio, il collega, e da premesse che mi sembravano pienamente condivisibili si è passati a conclusioni del tutto inaccettabili, con un salto logico assolutamente da rifiutare. E noi non abbiamo semplicemente interessi da tutelare di natura energetica, noi non abbiamo un passato per cui con la Libia o con altre parti del Nord Africa, a meno che non si voglia tornare all'epoca dell'Impero Romano, vi sia stata una comunanza di vedute, di strategia politica e via dicendo. Noi abbiamo avuto delle esperienze con Giolitti di occupazione militare, lo stesso è valso successivamente, poi nel 2011 per scelta lo ripeto, scellerata di qualcuno che aveva sì interessi nazionalistici di natura energetica da tutelare, abbiamo assecondato una guerra che si è rivelata decisamente peggiore delle più pessimistiche previsioni, per cui abbiamo fatto saltare un altro caposaldo moderatore nel Nord Africa e adesso il Nord Africa è tuttora afflitto da problemi gravissimi che si riversano sull'intera Europa. Per quanto riguarda il pagamento di di 13 milioni di euro, per quanto leggo, beh, io non lo posso escludere, certamente mi dorrebbe sapere che da un lato si dice da parte di tante istituzioni occidentali che bisogna farla finita con il finanziamento a gruppi terroristici che poi attentano agli europei, non soltanto agli europei, perché molti attentati hanno colpito africani ed asiatici, ricordiamolo, e poi si va a pagare. Queste sono cose che possono essere ammesse semplicemente da chi pratica la politica dell'ipocrisia, per cui lo si dica chiaramente, magari in alcune situazioni riteniamo che sia più ragionevole e più giusto pagare riscatti a fronte di rapimenti come quelli che hanno riguardato appunto i tecnici di questa azienda italiana, e almeno facciamo capire a tutti quanti i cittadini, non soltanto italiani ma anche europei, che le cose sono molto più sporche di quanto non si voglia far credere. Quindi insomma l'opinione del Movimento 5 Stelle è che meno ci intromettiamo nel caos libico meglio è, questa è la sostanza. Questa è la sostanza, la interrompo per dare la linea alla pubblicità e poi ci risentiamo subito dopo. Ma cos'è quest'estate? E io do il benvenuto a Emanuele Fiano da Israele, ma gli chiedo un attimo di attendere perché c'è anche Alessandro Orsini, direttore del Centro Studio del Terrorismo dell'Università di Roma Tor Vergata e docente di sociologia del terrorismo alla LUIS. Buongiorno Orsini, lei ha scritto anche un libro, ISIS e i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli. Questa posizione del ministro degli esteri Gentiloni, che dice che bisogna fare una fase 2 in Libia e che bisogna poi addestrare agenti militari a Tripoli, la convince oppure rischia di far sì che il nostro paese diventi un obiettivo dei terroristi? Ma diciamo che non ci sarà soltanto una fase 2, una fase 3, quindi credo che sia inevitabile che l'Italia venga coinvolta in tante fasi, perché nel mondo ci sono 195 stati e l'Italia è uno dei primi 7-8 paesi più importanti del mondo, quindi c'è anche una regola che riguarda la politica internazionale che quasi sempre viene rispettata, e la regola è che se c'è un conflitto in un paese, i paesi confinanti sono tenuti a impegnarsi. L'Italia chiaramente non confina territorialmente con la Libia, ma è come se confinasse. Io direi che dobbiamo distinguere le notizie buone dalle notizie cattive. Le notizie cattive per quanto riguarda la possibilità di un attentato terroristico contro l'Italia sono che l'Italia ha offerto agli americani l'uso della base di Sigonella per condurre dei bombardamenti o comunque dei raid limitati con i droni contro le postazioni dello Stato Islamico a Sirte, e in genere questa è una delle decisioni politiche che fa crescere l'odio dell'ISIS nei confronti di un paese. C'è però anche una buona notizia, se così posso esprimermi, e cioè che l'Italia si è rifiutata drasticamente di intervenire militarmente in Libia contro le postazioni dell'ISIS, e questa in genere è una decisione politica che piace all'ISIS. Aggiungerei anche che l'Italia si trova in una posizione simile, anche se diversa, rispetto a quella della Turchia, perché il 23 luglio del 2015 la Turchia offrì agli americani la base di Incirlik per condurre bombardamenti aerei contro le postazioni dell'ISIS in Siria e anche in Iraq, e dopo la Turchia subì una valanga di attentati terroristici. Però qui bisogna fare una distinzione molto importante, perché a differenza dell'Italia, la Turchia non si limitò soltanto a mettere a disposizione degli aerei americani la base di Incirlik, ma condusse direttamente dei bombardamenti aerei contro le postazioni dell'ISIS in Siria e soprattutto colpì lo Stato Islamico in un suo interesse strategico di gigantesca importanza, che erano i foreign fighters, perché a partire dalla data che ho citato, cioè il 23 luglio del 2015, la data dell'accordo tra Erdogan e Obama, la Turchia ha colpito in maniera durissima lo Stato islamico per quanto riguarda il flusso dei foreign fighters che appunto dall'Europa transitavano in Turchia per poi recarsi in Siria nei domini dell'ISIS. Perciò direi che un'altra buona notizia, sempre con riferimento alla possibilità che il nostro paese subisca un attentato terroristico, è che in Europa, nell'Europa occidentale, ci sono soltanto 5 paesi che conducono bombardamenti aerei contro l'ISIS in Siria e in Iraq, e questi 5 paesi sono l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, l'Olanda e la Danimarca. Finora sappiamo che sono stati colpiti soltanto il Belgio e la Francia, l'Inghilterra è bersagliata dall'ISIS e finora non è stata colpita soltanto grazie ai suoi servizi di intelligence, ed sarebbero l'Olanda e il Belgio. Diciamo che l'ISIS ha una gerarchia dell'odio, in vetta a questa gerarchia ci sono i 5 paesi che ho citato, cioè che bombardano direttamente l'ISIS, l'Italia non fa parte di questi paesi, quindi direi che il nostro paese è esposto oggi più di prima a causa di quello che accade in Libia, al pericolo di un attentato terroristico, ma resta il fatto che nella gerarchia dell'odio ci sono altri paesi che vengono prima prioritari. Interrompo perché c'è Emanuele Fiano, responsabile nazionale PD alle riforme, che è collegato da Israele, giusto Fiano? Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Dove si trova? Nel Negev? Dove si trova? In sì, mezzo al deserto? Nel deserto del Negev, sì. E qual è la situazione adesso, visto che sta lì, la sfruttiamo anche per sapere qual è la situazione in Israele, che è da sempre un paese sotto attacco. In questo momento c'è come si vive e quale lezione magari a livello di sicurezza ci può dare Israele? Ma io comunque faccio un commento ovviamente solo da osservatore, sono qui per un periodo di vacanza. Guardi, se devo dire una cosa che mi ha molto colpito, avendo visto anche qualche città palestinese, qualche città arabo-israeliana, mi ha molto colpito rispetto a pochi anni fa una crescente islamizzazione della popolazione. Vedo moltissime, se non praticamente tutte le donne che portano il velo, un tempo non era così in questi ambienti, in questi centri abitati. Sono molto cresciuto il numero di moschee e sono state anche molto rinnovate. Questa è una considerazione puramente, diciamo così, di colore. Sì, è di colore, però secondo me vuol dire anche qualcosa. E c'è una situazione. No, io non ho visto momenti di particolare tensione per nostra fortuna, per fortuna di tutti, però. È evidente che, come dire, sotto la cenere cova un tema al quale, se non verrà data risposta, anzi i temi forse sono due, perché Israele ha sia il tema della popolazione palestinese che vive in Giudea e Samaria, in Cisgiordania, poi c'è il tema di Gaza, poi c'è anche il tema della popolazione, come viene chiamata, araba israeliana, che è una popolazione ingente su uno Stato che non arriva a 7 milioni, credo che la popolazione araba sia tra 1,5 milioni e 2 milioni, in alcune parti del paese in particolare, in Galilea e nel cosiddetto triangolo nel centro di Israele, e sono tutte questioni che, come dire, che crescono di intensità. Al momento in questo momento non c'è una situazione di tensione, mi auguro che sarà sempre così, però certo sono problemi che, se non risolti, producono conflitti, ma la cosa invece, Emanuele Fiano, torniamo all'Italia, c'è questo problema che è stato poi segnalato, il fatto che possano partire dei barconi da Sirte di terroristi dell'ISIS per poter colpire l'Italia, e c'è il ministro degli esteri Paolo Gentiloni del suo stesso partito, il PD, che dice che bisogna entrare in una fase 2 in Libia e bisogna capire che la guardia va tenuta alta, se l'ISIS perde a Sirte e in Siria, però, dice Gentiloni, il rischio terrorismo si riduce e bisogna comunque far qualcosa, cioè far addestrare gli agenti e i militari di Tripoli. Lei che ne pensa? Ma condivido ogni parola di Paolo Gentiloni, lì avete appena ascoltato un grande esperto che, sì, io ho letto il suo ultimo volume. Noi siamo in una fase, lo possono dire gli esperti meglio di me, del terrorismo multiforme, cioè noi abbiamo sia il pericolo dell'organizzazione vera e propria di Daesh, dello Stato Islamico, che ha ancora una sua propaggine cospicua nella Libia, nella zona di Sirte, che potrebbe e può organizzare cellule o inviare cellule o avere contatti con cellule già esistenti. poi c'è una forma, una dimensione del terrorismo che è quella di coloro che vengono contattati ma che stanno nei nostri paesi europei, che subiscono, che vivono una formazione culturale ideologica verso il terrorismo, la violenza e la morte, ma come dire da lontano. Poi ci sono i singoli che si imbevono di questa ideologia attraverso soprattutto magari la rete internet o attraverso un contatto. Quindi noi abbiamo una necessità di combattere le forme del terrorismo che hanno varie dimensioni. Certamente, come dice Gentiloni, sotto il profilo della dinamica militare, togliere, sconfiggere la presenza del califfato islamico dalle coste della Libia, che sostanzialmente confinano con noi, divise tra da noi dal braccio di mare del Mediterraneo, è una cosa che va fatta ed è una cosa che ci porta sicurezza. Poi rispetto a questo terrorismo multiforme, le n possibilità che qualcuno si organizzi per farci del male, e io condivido poi molto, anzi ascolto con attenzione la classifica del pericolo che altri stati hanno maggiore di noi, di cui parlava prima Orsini, anche se ripeto poi c'è anche il caso del singolo terrorista che tutti noi lo sappiamo, perché ogni giorno che c'è una notizia che qualcuno sul treno, che magari non c'entra niente col terrorismo come è successo in Svizzera o altri episodi, ci sono uccisioni, mai come in questo periodo dall'Europa rimbalzano notizie che un tempo non sarebbero rimbalzate, perché noi sappiamo che al di là delle forme organizzate anche il singolo può decidere in nome delle sue convinzioni terribili di lettura del Corano, comunque delle sue convinzioni religiose, di decidere di uccidere qualche occidentale. Quindi quello che dice Gentiloni su Sirte è totalmente condivisibile. Il pericolo è sicuramente molto alto, basti dire che nonostante Israele abbia probabilmente il miglior sistema di sicurezza antiterroristico del mondo e l'esercito più pronto a questa particolare fattispecie di violenza, purtroppo anche in Israele, come sapete, non sono riusciti a evitare terribili attentati e quindi il pericolo rimane sempre alto. Prima di salutarla, perché la linea è abbastanza disturbata nel deserto del Negev, è stato pagato, secondo alcune indiscrezioni, un riscatto di 13 milioni di euro per i tecnici della Bonatti e ci sono state molte polemiche. Lei ne sa qualcosa oppure continuiamo a dire va bene, probabilmente così? No, non ne so assolutamente niente. Visto che lei mi fa delle domande, io sono in Israele, ricordo che qui la vita è sacra, per cui per la restituzione della vita di un solo soldato di Israele sono stati scambiati a volte 2000 prigionieri palestinesi, quindi nei confronti della salvaguardia della vita umana si possono fare cose che la nostra etica comune non permetterebbe, la mia stessa etica comune non permetterebbe di pensare che si possa, come dire, pagare per i terroristi per venire restituire una vita umana, però di fronte alla possibilità di veder perse delle vite umane io capisco la necessità di mediazione e di compromesso. Ringraziamo allora Emanuele Fiano, responsabile riforme del PD da Israele. Marco Ludovico, abbiamo sentito un quadro molto frammentato, Marco Ludovico, giornalista del Sole 24 Ore. Tu ci parlavi, insomma, intanto dobbiamo dire grazie a Dio ancora non è successo nulla. E tu dici però non è un caso, c'è una struttura antiterrorismo in Italia che funziona, questa è la tua teoria. Ma più che teoria è il frutto di un'esperienza, ma anche di una tradizione che va messa bene a fuoco. Intanto gli attuali vertici, non soltanto quelli più alti, ma anche quelli che si trovano su tutto il territorio nazionale, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e di tutto il sistema degli apparati di sicurezza, viene, persone naturalmente che hanno 55-60 anni, viene da una tradizione, una cultura di forze dell'ordine che hanno avuto a che fare con il terrorismo, con la mafia, con fenomeni che negli altri paesi non ci sono stati e non hanno consentito di acquisire una serie di nozioni di reazione alle minacce che oggi noi possiamo vantare e che ci consentono di avere un controllo del territorio molto articolato, un controllo del territorio che è anche molto dettagliato. Pensiamo soltanto che non ha pari con il resto d'Europa una presenza come quella delle stazioni dei carabinieri, 4.589 stazioni in tutto il territorio nazionale. faccio anche notare, il ministro dell'interno lo cita sempre, che in Italia abbiamo una struttura che ha un acronimo abbastanza poco felice, abbastanza curioso, si chiama CASA. CASA sta per Centro Analisi Strategica Antiterrorismo. Detta così non procura particolari emozioni. In realtà è un meccanismo straordinario, perché è un ufficio presso il Ministero dell'Interno che si riunisce una volta alla settimana, tutte le settimane, che mette a confronto i responsabili antiterrorismo della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, dei servizi di intelligence. Ognuno porta le segnalazioni scusate, che in quella settimana sono arrivate da tutto il territorio e le mette a confronto con gli altri. Io ho avuto l'occasione la scorsa settimana di parlare con un altissimo esponente del sistema del comparto difesa e sicurezza, mi spiegava, raccontava come dentro questo ufficio a volte accade che una segnalazione considerata non così importante, ma comunque tenuta presente dai carabinieri, sia stata esaminata dall'antiterrorismo della polizia e abbia portato frutti, e viceversa, in uno scambio reciproco. Rappresento e sottolineo che per tradizione, non soltanto in Italia, ma anche nel resto del mondo, c'è sempre una rivalità enorme tra corpi di polizia, fra corpi di polizia e intelligence. La cooperazione fra questi sistemi, che possono avere informazioni diverse e che le mettono a fatto comune e che le possono poi verificare, è fondamentale, perché i controlli che dicevo prima, che saranno poi raccontati al Ministero dell'Interno, dal Ministro, come le 160.000 persone in 2 anni, non sono controlli fatti a casaccio, sono controlli mirati, perché sono appunto frutto di indicazioni specifiche. Che cosa significa questo? Che la copertura finora ha funzionato. Naturalmente sarebbe una sciocchezza dire non abbiamo finora avuto attentati perché siamo bravi, perché naturalmente se ci fosse un attentato, non lo diciamo. No, questo non è possibile, però ci sono comunque dei sistemi che sono stati messi che in hanno campo funzionato, che hanno funzionato. Shaim Fatih, spero di aver azzeccato la pronuncia, non ci avrete mai, lettera aperta di una musulmana italiana ai terroristi, autrice quindi di questo libro per Rizzoli, studentessa di giurisprudenza a Modena e delegata nazionale dell'Associazione Giovani Musulmani. Lei ha sentito il bisogno di scrivere questo libro. Perché? Buongiorno. Sì, ho voluto scrivere questo libro perché sentivo l'esigenza di raccontare innanzitutto cosa pensano i musulmani non solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo, e dare voce a tutti i giovani e meno giovani che da sempre hanno combattuto contro derive diciamo violente o che possono portare violenza e crimini nel mondo, e questo lo facciamo nel quotidiano. E con questo libro ho voluto anche raccontare una vita di una persona che è di religione musulmana ma si sente appartenente all'Italia, si sente italiana ma al contempo in qualche modo tutela la propria identità plurale, che appunto vede l'origine che è differente, che appunto perché provengo dal Marocco e anche perché professo una religione che è differente dalla maggioranza. Quindi l'esigenza è stata questa, l'esigenza è stata anche quella di scardinare tanti pregiudizi che in questi tempi sicuramente affiorano in modo molto più consistente, quindi combattere quelli che sono i pregiudizi, quelli che sono soprattutto delle visioni contorte e assolutamente sbagliate della realtà. Ma lei, per esempio, si è parlato molto del fatto che alcuni musulmani quando impazziscono, comunque prendono una strada che è quella del terrorismo, poi vengono coperti dalla famiglia, vengono coperti dagli amici. Ecco, in questo caso, secondo lei, ci sarà una possibilità che a un certo punto persone come lei, che si distinguono, dice io pratico, sono musulmana, pratico l'Islam, ma questo non ha nulla a che vedere col terrorismo. Lei denuncerebbe, per esempio, una persona della sua religione che sa che ha arsenali in casa di armi? Perché questo è il problema. Così si è scardinato il terrorismo italiano? Le faccio questa domanda per questo motivo. Il terrorismo, così come qualsiasi atto criminale, va assolutamente denunciato, ed è quello che non esiteremmo mai a fare. Questo perché non importa di che religione sia la persona, il problema è che questa persona appunto non rappresenta la religione che io professo e che miliardi di persone professano nel mondo. Sicuramente la denuncia dei crimini va fatta e invito tutti a farla, indistintamente da quelle che poi sono le caratteristiche della persona. Va denunciato il crimine e va denunciato il criminale, e su questo non ci sono assolutamente differenze di pensiero nei confronti dei musulmani e dei giovani musulmani in Italia. La ringrazio. Nicola Morra, senatore della Repubblica Italiana col Movimento 5 Stelle, ha sentito Fiano, ha detto 13 milioni di euro, però si sono salvate due vite, quindi sono polemiche sterili, se qualora fosse confermato. Io vorrei invece tornare su un altro punto, sì, che Fiano ha rimarcato. Fiano diceva all'inizio del suo intervento di aver registrato, di aver osservato una forte islamizzazione della popolazione araba. Tutto questo, araba insomma, israeliana in questo caso. Sì, esatto, perché era appunto nello Stato di Israele, nel deserto del Negev. Però io vorrei appunto far capire che certe scelte producono un'accentuazione enfatica, parossistica di contrapposizione. Ora, poi, relativamente alla questione dei 13 milioni, noi possiamo avere posizioni fra di noi diversissime. L'importante è essere chiari, perché per esempio noi ci battiamo da sempre affinché si tolgano le fonti finanziarie, in pratica noi occidentali e in particolar modo noi italiani, la si smetta di finanziare indirettamente quegli stati e quelle organizzazioni internazionali che comunque di fatto continuano ad avere rapporti con Daesh, con ISIS, e lo finanziano. Per dire, noi continuiamo ad avere rapporti commerciali, fra l'altro in segmenti merceologici particolarmente importanti. Noi vendiamo armi all'Arabia Saudita, al Kuwait, e a livello di intelligence si sa che appunto questi due stati arabi, ma anche altri, spesso e volentieri omaggiano le organizzazioni terroristiche che sono al fianco di Daesh, appunto di armi, di competenze, di preparazione. Allora, diciamoci chiaramente, noi il terrorismo lo vogliamo combattere alimentandolo oppure lo vogliamo combattere prosciugandone le sorgenti? Se li vogliamo far recedere, innanzitutto dobbiamo fare la guerra dal punto di vista finanziario. Questi signori hanno necessità di risorse. Se noi siamo i primi a pagarli, poi questi qua trovano facilmente armi con cui portare a termine i loro folli progetti. Per cui superamento dell'ipocrisia, poi che la vita umana sia un valore enorme, per molti sacro, benissimo, questo anche noi siamo assolutamente convinti, che però poi le nostre aziende debbano andare a lavorare in scenari di guerra, in scenari particolarmente difficili, beh, quello è un altro discorso, perché che io sappia, per esempio, la Farnesina spesso e volentieri invita gli italiani che vogliono andare all'estero a segnalare se abbiano intenzione di andare in fronti caldi, perché poi si sa che ci sono problemi. Bene, noi cerchiamo un pochino di usare prudenza, perché sarebbe assolutamente sciocco, folle e anche, mi scusi, brutto dover registrare che magari effettivamente si sono pagati dei soldi e magari con quei soldi qualche folle, non dico in Italia, ma anche in Olanda, ma anche in Belgio, visto che poc'anzi si faceva riferimento a questi due paesi che sono impegnati sul fronte militare, possano portare a termine attentati terroristici. Io voglio credere che un mondo di pace sia possibile. Noi dovremmo investire in cooperazione, ma la dovremmo smettere di dirlo e basta, lo dovremmo fare, e dovremmo soprattutto investire in integrazione, perché i flussi migratori, grazie anche a politiche demografiche assolutamente insensate, saranno ineludibili nei prossimi decenni. Noi abbiamo un continente nero che demograficamente sta crescendo in maniera impetuosa, fra l'altro pare che economicamente quel timido accenno di crescita economica che aveva investito nel recente passato il continente africano si sia sul momento interrotto. In assenza di crescita saranno sempre più le persone che cercheranno, come abbiamo fatto anche noi italiani parecchi anni fa, cercheranno una ricollocazione nel mondo lì dove c'è la possibilità di un reddito, di un lavoro. E poi, fra virgolette, che sia legale o illegale, per molti sul momento non è una priorità. Siamo noi che dobbiamo diciamo così, educare alla cultura del rispetto delle regole, certo, a cominciare da noi stessi. Quindi noi chiediamo, per esempio, massimo controllo del territorio, identificazione assolutamente certa di chi arriva e poi tempi ridotti, per esempio relativamente alla questione immigrazione, tempi ridotti nella gestione delle domande. È inaccettabile che dopo 2 anni, come capita spessissimo qui in Calabria, dove io vivo, ci siano dei richiedenti asilo che ancora non hanno saputo se la loro domanda sia stata accolta oppure no. Ieri mi pare che Milena Gabanelli sul Corriere della Sera abbia indicato una sorta di piano. Benissimo, se ci riesce una giornalista formidabilmente preparata come Milena Gabanelli, mi domando perché noi come governo non si sia in grado di fronteggiare anche questa emergenza che, come ha ripetuto il collega Stucchi che presiede il Copasir, come ha anche, mi pare, ribadito Gentiloni in una delle sue ultime dichiarazioni, potrebbe essere utilizzata dai disperati che stanno combattendo per l'ISIS in Libia, in particolar modo a Sirte, per arrivare in Europa, in particolar modo in Italia, e poi magari realizzare qualcosa che nessuno di noi vuole. Nicola Morra, grazie. Senatore, ricordiamo, della Repubblica col Movimento 5 Stelle. Alessandro Orsini, abbiamo sentito varie opinioni, no? Anche su che cosa bisogna fare. 13 milioni di euro, questo è un po' la polemica di questi giorni per i tecnici della Bonatti sequestrati in Libia, che però poi sono stati versati a uomini vicino o addirittura proprio dell'ISIS. Questo è un po' il problema. Beh, questo è un dilemma etico che nessuno studioso potrà mai sciogliere, perché certo, da una parte è giusto invocare il principio umanitario secondo cui la vita umana ha un valore assoluto ed è pertanto un atto condivisibile pagare un riscatto perché non vengano uccise delle persone, dall'altra parte è condivisibile anche la posizione di chi dice sì, ma questi soldi verranno poi utilizzati per uccidere altre persone magari a Nizza o a Parigi. Però io sarei molto cauto, essendo uno studioso sono ossessionato dalla fonte, e la fonte da cui proviene questa notizia non è la stampa libera, bensì i servizi segreti di Tripoli, e io non mi fido quasi mai delle notizie che vengono diffuse dai servizi segreti, perché so in questo mondo quanto siano importanti le strumentalizzazioni, le falsificazioni. Ed è davvero sconcertante quello che è accaduto, perché questa notizia è stata rivelata, ammesso che sia vera, e ho i miei dubbi, da capo dei servizi segreti di Tripoli. Questo ci aiuta a comprendere anche il caos politico che esiste a Tripoli, perché in nessuna democrazia occidentale o comunque in nessun serio paese del mondo il capo dei servizi segreti rivelerebbe una notizia che per definizione è segreta, peraltro polemizzando con i servizi segreti italiani dicendo che non sono collaborativi. È stupefacente, e lei può immaginare di fidarsi della sua controparte quando poi questa controparte rivela notizie sensibili e così delicate. Questi sono interventi che eventualmente può fare un ministro degli esteri, un presidente del consiglio, ma non di certo, certo, il capo dei servizi segreti. Però quindi... è uno dei modi in cui poi l'ISIS si finanzia, questa dei rapimenti o dei ricatti, insomma, a parte il petrolio. Certo, questo è. Questo glielo sto domandando. No, la sua è una domanda, ma è un'affermazione, volendo, corretta, togliendo il punto interrogativo, perché le principali fonti di finanziamento dell'ISIS sono innanzitutto le tasse che impone sulla popolazione, la seconda voce più cospicua è il petrolio, poi c'è il mercato dei beni archeologici che vengono venduti in nero, e poi c'è anche il mercato dei riscatti. Quindi la sua osservazione è corretta, però ripeto, mi fido sempre molto delle notizie che provengono dalla stampa libera, non mi fido quasi per niente delle notizie che vengono diffuse dai capi dei servizi segreti, che per definizione svolgono una funzione che è quella di non dire mai la verità. Ringrazio quindi Alessandro Orsini, direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell'Università di Roma Tor Vergata e docente di sociologia del terrorismo alla LUIS. Marco Ludovica, abbiamo pochissimi minuti, siamo in chiusura. A che ora è prevista la conferenza stampa del ministro Alfano e in pratica cosa vi dirà? Riassumendo. Il ministro terrà fra 1.30 circa la riunione del Comitato Nazionale Ordine Pubblico e Sicurezza, e dopo illustrerà i dati di consuntivo dei controlli antiterrorismo che in parte vi ho anticipato già prima. Ci dirà sicuramente che, come sempre, l'Italia non è a rischio zero e racconterà quali sono i sistemi che anche oggi sono stati ulteriormente rafforzati. Cito soltanto un dato di attualità: qualche giorno fa è stato detto che c'erano più controlli all'interno dei porti, una cifra che il ministro darà è che sono state controllate 346 navi e oltre 34.371 veicoli, quindi anche il sistema portuale naturalmente in questo momento è sotto osservazione. E vorrei fare soltanto un'aggiunta alle considerazioni che si facevano sul rischio che può esserci in Italia, perché è vero che abbiamo un sistema molto efficiente, ma naturalmente ci sono alcuni punti critici che vanno rapidamente migliorati. Per esempio il fatto che molti migranti arrivano in Italia senza avere i titoli per poter ottenere la dichiarazione di protezione internazionale. Il 60% di loro trova la domanda respinta. Ora, probabilmente non sappiamo quanti di questi poi effettivamente siano soggetti a rischi. Resta il fatto che nel 2015, su 34.000 stranieri dichiarati irregolari, soltanto 3.688 sono stati riportati nei loro stati di origine. Chiaro, ti devo interrompere. Ringrazio Sylvie Boccaletti, Massimiliano Lollis, Luca Cremonese in redazione. Ovviamente ringrazio il collega Marco Ludovico, del giornalista del Sole 24 Ore. Vi do appuntamento a domani alle 8:15. Linea al GR.